Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Approvata a maggioranza la manovra di bilancio, vale oltre 5 miliardi di euro, capitolo più cospicuo sulla sanità, critica l'opposizione. Pronto soccorso di Cattinara sotto pressione, si resta in attesa anche per 5 giorni. I 20 posti letto all'ITIS cominceranno a essere attivati lunedì. Un'anziana morta nell'incendio divampato nella sua abitazione ad Aviano è stata ritrovata ieri senza vita dalla badante. Troppo freddo in aula, gli alunni decidono di restare a casa. È successo al liceo di San Pietro al Natisone in classe 12 gradi. Animalisti in A4 controllano i camion che trasportano animali vivi e segnalano quelli irregolari alla polizia stradale e ai veterinari. Pneumatici in mare, scatta questa mattina la raccolta a Muggia. I numeri di gomme finite sott'acqua sono impressionanti. 7:19 minuti di sabato 17 dicembre, buongiorno da Dario Ronzoni e Rita Micoli. Subito uno sguardo al meteo, il cielo è coperto su tutta la regione. Le temperature registrate alle 6, a Trieste 7,5 gradi, vento a 38 km orari da est levante, a Pordenone 7,5 gradi, Udine e Gorizia 7, a Tolmezzo 5,5 gradi, a Forni di Sopra e sul Piancavallo 2,5 gradi, a Sappada 5 decimi di grado positivi, a Tarvisio 0 gradi. Sul Monte Zoncolan -2,5 gradi, sul Lussari -3,5 gradi. Sulla costa grado 9 gradi, Lignano 8,5 gradi. Le previsioni oggi di mattina: cielo coperto con precipitazioni diffuse, in genere moderate, localmente abbondanti a est. Quota neve oltre i 500 metri sulle Giulie, 800-1000 metri sulle Carniche. Soffierà bora moderata in pianura, sostenuta sulla costa. Già in mattinata schiarite a partire dalla Carnia, in estensione al resto della regione nel corso della giornata. Farà progressivamente più freddo a tutte le quote, specie dopo il tramonto. Rischio valanghe giallo moderato. Oggi gli accumuli di neve e ventata possono subire distacchi, soprattutto in caso di forte sovraccarico al di sopra dei 1800 metri. Domani il rischio è previsto marcato sulle Alpi Giulie, distacchi possibili anche in seguito al passaggio di un singolo sciatore e su tutte le esposizioni. Sulla crosta ghiacciata sussiste pericolo di caduta nelle zone ripide. Scossa di terremoto di magnitudo 2.7 con epicentro a 3 km a est di Clout, oggi alle 5.59. Il sisma si è verificato a una profondità di 2 km. A registrare la scossa il Centro di Ricerche Sismologiche, Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale OGS. La Protezione Civile Regionale segnala che non si registrano al momento danni a cose né a persone. Il Consiglio regionale ha approvato nella notte la manovra finanziaria per il 2023 con i voti favorevoli della maggioranza di centrodestra e il voto contrario di PD, Movimento 5 Stelle, Patto per l'Autonomia, Cittadini e Open Sinistra FVG, mentre il consigliere del gruppo misto Zalucar ha scelto l'astensione giudicando in modo negativo gli interventi in campo della sanità. 4 giorni e decine di ore di discussione, 5 miliardi e 3 di valore. Il Friuli Venezia Giulia e il suo bilancio per il 2023. Soddisfatta la Giunta, soddisfatti i consiglieri di maggioranza. L'opposizione valuta negativamente invece l'ultima finanziaria della legislatura. Una manovra ricca per via degli accordi stipulati tra Stato e Giunta nel 2019 e a causa della buona crescita economica dell'ultimo anno che ha portato in cassa molte risorse. La parte del leone, come scontato, la fa la sanità, con 2 miliardi e 9 più 113 milioni rispetto all'anno scorso. Sale la dotazione per più di qualche capitolo come ambiente ed energia e scuola, lavoro e famiglia. Le imprese riceveranno 55 milioni di contributi per l'installazione di pannelli solari, che si aggiungono ai 100 milioni per chi ha montato fotovoltaico su tetti di case e condomini a partire dal 1 novembre scorso. A misure di carattere generale si affiancano anche poste puntuali mirate alle singole realtà del territorio, in particolare negli emendamenti presentati dai consiglieri di maggioranza, che rispondono in questo modo alle esigenze del proprio elettorato. Si avvia al termine questa legislatura in vista delle elezioni che si terranno in una data da stabilirsi tra aprile e maggio. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Prima del voto finale, Fedriga ha rimarcato in particolare la valorizzazione dell'autonomia del Friuli Venezia Giulia attraverso la rinegoziazione dei patti finanziari con lo Stato e la competenza sui tributi locali. Il governatore si è detto soddisfatto del lavoro sugli investimenti, sulla sanità, dove molti passaggi ha detto hanno bisogno di tempo, e sull'ambiente, così come sul turismo tornato ai livelli del pre-pandemia e sulle politiche a sostegno della famiglia. Soddisfatti per aver allocato in tutti i comparti principali ed essenziali del sistema regionale risorse così importanti, ha detto l'assessore alle finanze Barbara Zilli, che si è soffermata anche sui fondi UE. La programmazione europea ha rilevato gode di un finanziamento aggiuntivo di 30 milioni per interventi di carattere di investimento di area vasta sovracomunale. Molto critica invece la valutazione delle opposizioni. Centinaia di emendamenti e quasi tutti respinti, ma poi spesso la Giunta ha ripreso le nostre idee, perdendo però tempo prezioso, ha detto Roberto Cosolini, relatore di minoranza per il PD. A questa manovra come voto darei 0, lo stesso numero di emendamenti che ci avete approvato, ha detto Cristian Sego del Movimento 5 Stelle. Il parere assolutamente negativo, ha detto Furio Honsel di Open Sinistra Friuli Venezia Giulia, riguarda tutti i 5 anni, non solo questo bilancio. Temo che questo mandato non lascerà traccia. Più ombre che luci per Tiziano Centi, 16 cittadini, e molte criticità, specie nel settore della sanità, mentre Massimo Moretuzzo, capogruppo del Patto per l'Autonomia, è convinto che la grande mole di risorse non sia stata utilizzata nel modo giusto. Dal centrodestra in 5 anni tantissime risposte ai cittadini, ha detto il capogruppo della Lega Mauro Bordin. Sulla stessa linea Claudio Giacomelli, Fratelli d'Italia, siamo rimasti uniti per 5 anni su ogni singolo voto. Il centrodestra fa, il nostro cambio di passo è stato impietoso rispetto al passato, secondo Franco Mattiussi, Forza Italia, mentre Mauro Di Bert, capogruppo di progetto FVG Autonomia Responsabile, ha parlato di una manovra finanziaria ricca, attenta al contingente ma anche alle prospettive. Ancora sotto pressione a Trieste l'ospedale di Cattinara e il picco dell'influenza che intasa le corsie non è ancora stato raggiunto. Critica la situazione nel pronto soccorso. Nel pomeriggio a Sugi ha incontrato i sindacati. All'ordine del giorno l'apertura di 20 posti letto esterni per i pazienti a bassa intensità all'ITIS, che comincerà lunedì. Le lettighe praticamente ovunque, i pazienti ricoverati in corsia perché di spazio nei reparti non ce n'è più da giorni. È stata un'altra giornata campale al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara, sotto pressione da settimane. Più di 80 accessi, quasi 4 ore di attesa per un codice azzurro. Nel reparto a cui abbiamo avuto accesso vediamo tantissimi anziani, quasi tutti con febbre alta, influenza o problemi cronici che potrebbero essere curati altrove. Una situazione non sostenibile, secondo Alberto Peratoner, sindacalista di rianimatori e anestesisti. Temiamo il rischio di default del pronto soccorso, numeri in aumento, operatori stanchissimi e al momento le promesse dell'azienda non si sono ancora concretizzate. Il rischio per Peratoner è quello di dover attingere agli altri reparti depotenziandoli, esattamente come è accaduto con il Covid. Se la situazione dovesse peggiorare come temiamo, il rischio è colonne di ambulanze in pronto soccorso, pazienti nei corridoi molto più di quanto è adesso, e allora a quel punto sarà necessario un impegno a discapito anche di attività elettive chirurgiche, mediche, ambulatori, per poter alleggerire e dare una soluzione a questa criticità. Asugi, che ha incontrato i sindacalisti sul tema, ha ammesso le difficoltà e ha annunciato che l'atteso accordo con l'ITIS per spostare i pazienti meno critici bisognosi di ricovero si farà a partire dalla prossima settimana, con qualche giorno di ritardo per questioni assicurative. 5 posti saranno attivi da lunedì, altri 15 entro Natale e ulteriori 20 entro la prima metà di febbraio. Antonio Poggiana, direttore generale Asugi. La risposta, il primo obiettivo è quello, e quindi di creare questa area che dovrebbe facilitare le dimissioni dalle medicine e quindi creare posti letto per eventuali ricoveri su un setting ospedaliero e quindi su acuzie, e utilizzare invece questo nucleo per pazienti stabilizzati che hanno sostanzialmente necessità di assistenza infermieristica. Gli altri sindacati che hanno preso parte all'accordo lanciano invece l'allarme sociale. Troppe persone intasano i pronto soccorso per urgenze non mediche. Il comune, secondo i rappresentanti degli operatori sanitari, deve fare di più. Trieste, Andrea Saula, TGR, Friuli Venezia Giulia. E ora la cronaca con il ritrovamento ieri nella sua casa ad Aviano di un'anziana uccisa da un incendio divampato nell'abitazione partito da una stufa. Un'anziana è morta nella sua abitazione ad Aviano, in via dei Molini. La donna, Esther Candotto, 86 anni, è stata ritrovata senza vita dalla badante che ha allertato i soccorsi. L'anziana era riversa a terra in cucina davanti alla stufa a legna con estese ustioni sul corpo. Secondo una prima ricostruzione, del materiale combustibile avrebbe preso fuoco, forse un panno che l'anziana aveva in mano e che presumibilmente usava per aprire lo sportello della stufa, coinvolgendo poi i vestiti della donna e parte degli arredi della cucina con un piccolo focolaio su una sedia, senza estendersi agli altri locali. Quando sono arrivati i vigili del fuoco, l'incendio era già spento e la donna deceduta, probabilmente dalla notte prima. Sul posto anche i sanitari, il medico legale e i carabinieri. L'ingegnere Marco Minozzi, funzionario dei vigili del fuoco di Pordenone. Probabilmente la signora ha preso qualche materiale combustibile vicino alla cucina economica, se l'è portata con sé. Era una persona anziana, quindi con un girello, e si muoveva in modo difficoltoso, quindi ha preso fuoco probabilmente i vestiti della signora. Nei giorni scorsi un altro anziano è rimasto ustionato nella sua casa a Dignano. Si trovava accanto a un caminetto quando è stato accidentalmente raggiunto dalle fiamme. Si è salvato, riportando però lesioni gravi. Alcuni consigli sulla sicurezza. Ancora l'ingegner Minozzi. Di non avvicinarsi sempre a superfici irraggianti, di non utilizzare materiale combustibile e soprattutto materiale infiammabile vicino a sempre queste cucine economiche o a fuochi accesi, fuochi di legna, di fare la pulizia delle canne fumarie sicuramente e di seguire gli anziani. Proprio questo è un consiglio, proprio con il cuore, di seguire gli anziani. Aviano, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Troppo freddo in aula, gli alunni decidono di restare a casa. È successo al Liceo delle Scienze Umane, Liceo Linguistico di San Pietro al Natisone, dove le temperature in classe hanno toccato i 12 gradi, come riferisce la dirigente Alberta Pettuello. I disagi si sono manifestati da mercoledì. Giovedì la decisione di non andare a scuola da parte di molti dei 400 ragazzi ospitati nella storica struttura. Ma la situazione, indica la preside, è migliorata in giornata, sia grazie ai correttivi apportati agli orari di accensione dei riscaldamenti da parte dell'ente di decentramento regionale, sia ricollocando alcune classi in aree della scuola meglio esposte. Stiamo testando impianti ed edifici con nuovi orari per capire se si riescono a contenere i consumi e quindi risparmiare su una bolletta energetica che si preannuncia di 16 milioni, ha spiegato il commissario EDR per Udine, Pordenone, Augusto Viola. L'EDR è l'ente responsabile per l'edilizia scolastica per le scuole superiori di secondo grado. Quest'anno, per esigenze di risparmio in applicazione del Piano Nazionale di Efficientamento Consumi, è stato ridotto l'orario di accensione dei riscaldamenti. Con l'arrivo dell'inverno si sta verificando se le disposizioni iniziali sono appropriate per ogni specificità locale, visto che per esempio la classificazione climatica di San Pietro al Natisone è la stessa di Latisana, ma ogni territorio e ogni istituto hanno esigenze differenti. I dirigenti scolastici sono stati invitati a segnalare all'EDR le proprie esigenze, così da apportare le modifiche necessarie su misura ai piani di riduzione dei consumi e salvaguardare il benessere degli alunni. Idee comuni per costruire l'alternativa è il titolo dell'incontro organizzato da Open Friuli Venezia Giulia a Udine al Birra Store di Viale Vat dalle ore 9 alle 14. A Udine, manifestazione silenziosa a sostegno delle donne iraniane che lottano contro il regime teocratico. Organizzano le donne in nero di Udine alle 17 sotto i portici di via Cavour. Agnelli che arrivano esausti a destinazione senza acqua né cibo per ore, compressi nei rimorchi sovraffollati, lo denuncia la no profit Essere Animali, che è tornata in Friuli Venezia Giulia per un monitoraggio delle condizioni in cui vengono trasportati gli animali vivi destinati ai macelli nel centro e sud Italia. Transiti dalle frontiere del Friuli Venezia Giulia che si intensificano con il periodo delle festività. Abbiamo intervistato Francesco Ceccarelli, responsabile investigazioni dell'organizzazione, alla stazione di servizio di Gonars, da cui partono i monitoraggi e campioni sui tir in transito. I controlli ufficiali nei trasporti di agnelli lo scorso anno sono stati il 5%. E secondo noi sono troppo pochi, perché nella nostra esperienza sul campo, tipo l'anno scorso, su 6 camion che abbiamo fermato, 3 avevano delle irregolarità che sono state sanzionate dalla polizia stradale. Le problematiche e le irregolarità più comuni che troviamo sono il fatto che gli agnelli toccano con la testa sul piano superiore del camion, per cui questo fa sì che loro viaggiano tutto il tempo con il corpo piegato e non possono avere un comportamento naturale, non riescono a bere. Fai conto che sono agnelli di pochi mesi di vita e i beverini che sono installati nel camion loro non li sanno utilizzare, per cui può capitare che in 30 ore di viaggio quasi non bevono. Facciamo questo tipo di monitoraggio per produrre un report da presentare alla Commissione Europea, perché proprio quest'anno stanno revisionando la legge relativa ai trasporti degli animali vivi. Gonars, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Dalle 9.30 di stamattina a Muggia si procederà alla raccolta straordinaria di pneumatici fuori uso PFU in mare, un'iniziativa nata dalla collaborazione tra Mare Vivo e il consorzio Ecotire, che in Italia si occupa della gestione di questi rifiuti. I numeri di gomme finite sott'acqua sono impressionanti, spesso cadono in maniera accidentale, come nel caso dei pescherecci che li impiegano come protezione dello scafo, ma a volte vengono gettati per incuria e inciviltà. Con Carmen Di Penta, direttore generale Mare Vivo, abbiamo fatto il punto della situazione. Dopo quasi 10 anni oserei dire che è diventato diverso il rapporto dello pneumatico e del cittadino. Forse 10 anni di attività sono sicuramente state importanti, perché aver sensibilizzato la gente quando ne abbiamo tirati fuori a centinaia da porti e porticcioli, soprattutto nelle isole, ma anche lungo tutte le coste italiane. Ma questo stava a significare poter raccontare, avendo in mano la parte tritata, far vedere agli adulti come ai ragazzi che non è un rifiuto, se ben gestito è una risorsa. Questa è la cosa più importante da raccontare. Diventano polverino per poi diventare, le ho detto, più un granellato, e possono essere impiegati ormai all'ordine del giorno su pavimentazioni, asfaltature, a pannelli con assorbenti, insomma, fino addirittura Ecotire, il consorzio con il quale noi lavoriamo. Questa sperimentazione che hanno fatto da gomma a gomma, cioè il 20% di una gomma può diventare un'altra gomma. E quanti ne pescate di solito? Diciamo che noi siamo arrivati a prendere anche fino a 300. Ad esempio in Sardegna la Maddalena, perché quando le cime che li tengono sospesi affinché non batta la barca contro il molo si consumano, poi cadono in acqua e ne verranno messi degli altri. Non vengono gettati intenzionalmente, quindi? Un po' e un po'. Devo dire che abbiamo avuto tutte e due le situazioni, perché io ho trovato per esempio nel porticciolo di Nisida, ne abbiamo tirati fuori 300, lì ci siamo proprio chiesti come ci sono finiti. Forse all'epoca, parliamo di una decina d'anni fa, era più costoso smaltirli che buttarli a mare. E a Muggia quanti pensate di trovarne? Un centinaio. La cosa fondamentale è che è cambiata un po' la visione dello pneumatico e soprattutto oggi ne trovi di meno dispersi, molto di meno. La scuola di musica Ritmea organizza a Udine un evento sul tema della disabilità e dell'inclusione. Ospite sarà Luca Trapanese, assessore alle politiche sociali di Napoli. Ha fondato A Ruota Libera Onlus, avviato una comunità per ragazzi disabili senza genitori, il Borgo Sociale ed una casa famiglia per bambini con gravi malformazioni, unica in tutto il sud Italia, la casa di Matteo. Sui suoi canali social racconta la quotidianità con la figlia Alba, bambina con la sindrome di Down, adottata nel 2018. In serata ci sarà il concerto dell'orchestra inclusiva AMI, fondata da 50 musicisti con e senza disabilità. Alle 10 l'incontro in sala Iace, ingresso libero fino a esaurimento posti. Alle 20.30 l'auditorium Zanoni, il concerto natalizio dell'orchestra AMI, attività musicale inclusiva della scuola di musica Ritmea, ingresso libero fino a esaurimento posti. Dopo l'inaugurazione della restaurata Torre di Santa Maria, la vetrina dell'ingegno di Confindustria a Udine aprirà ancora una volta le porte alla cittadinanza dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Nel ruolo di ciceroni alcuni studenti del liceo Caterina Percoto. La vetrina dell'ingegno, inserita nel complesso architettonico di Palazzo Toriani, sede di Confindustria a Udine, ospita un'esposizione permanente sulla storia dell'associazione industriale al piano terra e una temporanea nei 5 piani della torre. Ogni anno l'esposizione sarà dedicata a una diversa categoria merceologica di Confindustria a Udine. Si parte con i settori dell'edilizia e dei materiali da costruzione. I volontari della delegazione FAI di Pordenone riaprono le porte del castello di Zopola, poco conosciuto e non sempre aperto al pubblico. Conserva interessanti affreschi di Pomponio Amalteo e Pietro da San Vito. Turni di visita ogni ora dalle 9.30 alle 16.30. Consigliata la prenotazione sul sito faiprenotazioni.fondoambiente.it. Torna a Pordenone Porte Aperte in Consiglio, iniziativa nata nel 2017 che prevede l'apertura al pubblico per la visita guidata del Palazzo Municipale. Dalle 10 alle 12 alcuni consiglieri comunali nella veste di guida illustreranno i principali aspetti storici, artistici e istituzionali del municipio, ma anche gli aspetti amministrativi della gestione dell'ente pubblico. La cultura ora al Castello di Gemone, inaugurazione della mostra Pierpaolo Pasolini 100, il cinema di Pasolini visto dai manifesti, esposti, materiali cartellonistici utilizzati per promuovere l'uscita dei film, non solo quelli relativi alla sua attività di regista, ma anche quelli cui collaborò come sceneggiatore o attore. Curata da Luciano De Giusti e Piero Colussi, permette di ripercorrere tutta la carriera cinematografica del regista e intellettuale di Casarsa attraverso i manifesti, le locandine, le fotobuste originali dell'epoca provenienti per la maggior parte dal Fondo Gianni da Campo della Cineteca del Friuli, più alcuni soggetti di Cinema Zero di Pordenone e del George Eastman Museum di Rochester. Il Civico Museo Revoltella, nell'anno delle celebrazioni del suo 150esimo anno di vita, valorizza le ultime acquisizioni del suo patrimonio, 10 dipinti realizzati tra il 1930 e il 1954 dal pittore triestino Dialma Stultus, donati dalle figlie dell'artista. Una triestinità decisa e audace, quella che emerge dalle 10 tele del pittore novecentesco Dialma Stultus, donate al Museo Revoltella di Trieste. Nato nella Trieste asburgica nel 1901, Dialma si diplomò all'Accademia di Venezia negli anni 20. Artista originale, pienamente inserito nella temperie culturale del suo tempo e tuttavia rimasto sempre eccentrico rispetto alle principali correnti novecentesche, fu amico di intellettuali come Italo Svevo, Gianni Stuparic e Anita Pittoni. E dal 1941 si stabilì a Firenze, accogliendo ulteriori suggestioni dal contesto artistico-culturale toscano. Il sottosegretario alla cultura e critico d'arte Vittorio Sgarbi. Stultus è rimasto sempre ai margini, anche per la sua doppia identità triestina, ma poi svolta in larga misura a Firenze, e quindi in un linguaggio che non può essere detto né connesso ai grandi artisti riconosciuti e ristudiati come Nathan, come Sbisà, come Selva di area triestina, e neanche con i toscani come Rosai e gli altri che avrà sicuramente frequentato. La curatrice del Museo Revoltella, Susanna Gregorat. Dialma Stultus spiccò per la sua passione, la sua tenacia nel perseguire l'ideale artistico. Quindi è un grandissimo arricchimento per il nostro patrimonio e per la nostra città. A donare le opere le tre figlie del pittore triestino, Marina, Nada e Selma Stultus, l'unica quest'ultima a partecipare alla cerimonia. Per noi è un enorme significato perché è veramente un coronamento, almeno un primo incoronamento per le opere di nostro padre, che mia madre ha sempre agognato questa donazione. E dunque questo viene esaudito, questo è importante. Papà è sempre stato legato fino alla fine a Trieste, tanto. Poteva essere in qualsiasi città del mondo, però Trieste rimaneva nel cuore. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. E ora gli spettacoli a conclusione della 31esima edizione del Festival Internazionale di Musica Sacra. nel Duomo con cattedrale di San Marco a Pordenone alle 20:45, lauda per la Natività del Signore, musiche di Ottorino Respighi e di Alessandro Loro in partenariato con il Festival di Musica Sacra di Trento e Bolzano. Il Gloria di Antonio Vivaldi per il concerto di Natale del Comune di Pordenone, in programma alle 20:30 al Centro Culturale Aldo. Protagonista della serata il coro polifonico Sant'Antonio Abate di Pordenone, che festeggia i 25 anni di attività. Nel Duomo di Udine alle 20:45 la cappella musicale della cattedrale terrà il concerto Rorate Cieli, brani corali del tempo di Natale della tradizione friulana, italiana e internazionale. Oggi e domani il finale della rassegna dei concerti di San Martino in Carnia, con due appuntamenti dedicati al compositore Giovanni Canciani, tra cui la proiezione del film documentario Caro Maestro, dedicato all'artista ed intellettuale carnico, padre delle mozartine, insieme all'esecuzione di sue composizioni per coro e per banda. Alle 19:45 nella chiesa di Sant'Agnesaro, Rai Piccolo di Porcia, concerto di Natale con coro di voci bianche e coro giovanile. Per i concerti natalizi della Filarmonica di Pozzuolo l'appuntamento è all'auditorium alle 20:45. Il nuovo balletto di Toscana, in coproduzione con il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, affida a Jiří Bubenicek, già primo ballerino del balletto di Amburgo e dell'opera di Dresda, e oggi coreografo di fama internazionale, la rilettura della fiaba di Cenerentola sulle note di Sergei Prokofiev. Appuntamento alle 20:45 al Teatro Pasolini di Cervignano. A San Vito al Tagliamento alle 20:45 all'Auditorium Centro Civico Il Cigno, omaggio del Balletto del Sud al coreografo Michel Fokina, 80 anni dalla morte. Natalino Balasso inaugura con il suo dizionario Balasso la stagione del Teatro Comunale di Polcenigo alle 21. Il dissacrante spettacolo Pandora del Teatro dei Gordi al Teatro Orazio Bobbio di Trieste alle 20:30 in data unica, evento speciale della stagione del Teatro La Contrada. Alle 20:45 al Teatro Candoni di Tolmezzo, Mendez e Brazzo, testo di Massimo Vazzana, vincitore del Premio Nazionale di Drammaturgia Contemporanea Candoni, Ora Zero 2022. E un'asta di beneficenza della Elite Sport Academy, il progetto udinese di sport e benessere. In palio ci saranno 6 maglie dell'Udinese Calcio autografate dai giocatori. Il ricavato andrà alla nostra famiglia di Pasian di Prato, all'ESA Sport Center di via Martignacco, a partire dalle 10:30. Un cammino per le valli di Malborghetto Valbruna, tra attrazioni per turisti e occasioni di raccoglimento e ispirazione. È Advent Pur, il sentiero dedicato all'avvento della Val Canale, dove sarà possibile immergersi nella magia del clima natalizio tra canti tradizionali, fiabe e leggende. Oggi e domani sarà l'ultimo fine settimana in cui si potrà visitare. Abbiamo sentito Igor Longhini, assessore di Malborghetto Valbruna. Oggi avremo l'ultimo weekend di Advent Pur, quindi la traduzione letterale della purezza dell'avvento. Nella giornata odierna quindi ci sarà la possibilità di fare il percorso di 2,5 km sulla piana di Valbruna, dove si incontreranno tante sagome raffiguranti le tradizioni del solstizio invernale della Val Canale e tante opere lignee. Allo stesso tempo lungo il percorso ci saranno dei punti di ristoro, delle stufe, e mentre si arriverà al villaggio si incontreranno poi dei suonatori di corno, una famiglia musique, un coro, la possibilità di ascoltare delle fiabe raccontate dai bimbi all'interno di una baitina e il presepe finale. C'è l'opportunità quindi di fare sia un percorso turistico, con l'opportunità anche di prenotarsi, di fare il giro in carrozza con la slitta lungo il percorso, oppure appunto nella tranquillità, nella serenità del percorso, riappropriarsi del proprio essere, della tranquillità e della serenità, lontano da quelli che sono i rumori, i fragori della città, dei centri commerciali, del consumismo. Quindi Advent Pur vuole proprio essere questo, un percorso tanto turistico quanto anche spirituale, dove nella tranquillità, nella serenità di un percorso tutto in illuminato dalle lanterne, ha proprio l'effetto della fiaba e della magia. E ora allo sport. Il mondo del calcio regionale ricorda Sinisa Mihajlovic, scomparso ieri sul sito dell'Udinese, il cordoglio della società bianconera per il calciatore e allenatore. E oggi è test internazionale per l'Udinese, che giocherà in amichevole al Friuli Dacia Arena contro l'Athletic Bilbao. Fischio d'inizio alle 20 per la serie di Charlin Smuzzane, ospita il Levico Terme alle 14:30, il Tor Viscosa in trasferta a Bolzano. Coppa del Mondo di Biathlon, la sappadina Lisa Vittozzi mantiene il terzo posto in classifica generale grazie al piazzamento in sesta posizione nella 7 km e mezzo sprint disputata in Francia. Oggi la 10 km in seguimento alle 14.15 via la gara, alle 12.10 la 12 km e mezzo maschile con l'altro sappadino Daniele Fauner all'esordio. Pallanuoto, decima giornata di andata di Serie 1 maschile alla Bruno Bianchi. La Pallanuoto Trieste affronta la De Acker Bologna, inizio fissato alle 18.30. Pallanuoto Trieste appena conquistato i quarti finale di Eurocup, sarà lo Szolnok l'avversario nella gara di andata del 25 gennaio in Ungheria. Pallamano, l'ultima gara del 2022 mette in palio al Pala Chiarbola il secondo posto in classifica. A contenderselo sono proprio la Pallamano Trieste, avanti di una lunghezza, e l'Arcom Camisano, inizio alle 17. Basket, girone nord di Serie 2 femminile, Winamap, Udelser, Udine attesa sul campo della Velkofin, Vicenza, Falanino di coda della classifica, Palla 2 alle 18.30 per il basket in carrozzina, terza partita di campionato di Serie B, Castelvecchio Gradisca riceve il CUS Padova alle 16.30. Saranno ospitati al Palla Crisafulli a Pordenone oggi e domani i campionati italiani esordienti Under 13 e il Criterium Nazionale Giovanissimi nati nel 2010 di pesistica olimpica anno 2022, un evento che non trovava ospitalità in città da 28 anni. Alle 17.30 a Pordenone l'accensione della torcia olimpica per Playoff 2023. Il palaghiaccio di Clout ospiterà il torneo di curling con le migliori nazionali del continente europeo e Piancavallo sarà invece sede delle competizioni di snowboard. La cerimonia di apertura, ricordiamo, si terrà a Trieste il 21 gennaio. E siamo alla rassegna stampa. Il Piccolo, nelle sue edizioni di Trieste e Gorizia, ha la medesima apertura con fotonotizia sulla finanziaria regionale, approvata dal Consiglio nella serata di ieri. Arriva lo sport bonus regionale, titolo dedicato all'emendamento da 1 milione di euro ricalcato sull'art bonus a favore del settore sportivo. L'edizione di Trieste al centro ricorda l'investimento per inserire Muggia nel sistema portuale di Trieste con un retroporto alle Noghere da 60 milioni. Si parla anche del tentativo di sgravare l'ospedale di Cattinara con 20 posti letto all'ITIS, che diventerà così il primo ospedale di comunità, e del progetto della cabinovia, il cui costo è lievitato a 62 milioni e viene esclusa la fermata in zona SIS. Infine arriva in città la reliquia di Sant'Antonio, portata dai frati minori dopo un cammino di 2000 km a piedi iniziato a giugno. Maxi aumenti in bolletta, pronte le prime denunce all'apertura del Messaggero Veneto con i consumatori che chiedono lo stop degli aumenti unilaterali delle tariffe. Nella fotonotizia di Ogoriero, il dolore in Friuli per la morte di Mihajlovic, era stato l'anno scorso a giocare contro Pordenone in amichevole, Udinese aveva partecipato a un evento dell'Aido per il dono degli organi. Di spalla, redditi a Palazzo Daronco, il più ricco è Zanolla, in giunta primo Bari Lari, è l'apertura della cronaca cittadina. Preso con la droga nascosta negli slip e nel monopattino, 22enne arrestato per spaccio, ne abbiamo riferito ieri. L'influenza colpisce Pasian di Prato, malato un cittadino su tre, e poi 4 imprenditori condannati per fatture false. Pochi bebè, guerra tra punti nascita, è l'apertura del Gazzettino, anche qui nella fotonotizia i redditi dei consiglieri comunali di Udine. Spaccio a bordo del monopattino, giovane nei guai, un altro richiamo. Di spalla la polemica tra sindaco e opposizione su Carnera e Quiete, e poi la politica, Venanzi forse si sfila dei toni verso la corsa in solitaria al municipio, si legge sotto la stangata dei mutui. L'edizione del Piccolo di Gorizia, al centro il nuovo piano industriale di Fincantieri, che dà priorità alla canteristica navale ad alto valore aggiunto e punta allo sviluppo del settore militare e dell'offshore. L'utile netto è atteso dal 2025. Spazio anche all'evento enogastronomico Giviglio, che sarà occasione di mettere in vetrina la produzione vitivinicola della zona collinare. Si parla anche dell'operazione di sminamento dei guastatori sullo Iudrio. 74 ordigni al fosforo giacevano sul fondo del fiume da più di 100 anni. Mentre a Agrado si è aperta la corsa alle concessioni per 300 ormeggi, che dureranno 9 anni per le associazioni. La domanda va presentata entro il 2 gennaio. Sul Gazzettino di Pordenone stesso titolo, sui punti nascita, San Vito si legge nella morsa della concorrenza l'incubo della sospensione sotto i 500 parti. Fiamme dalla stufa, si brucia i vestiti e muore 86 anni, la cronaca di spalla, a Sacile la nonnina mette in fuga i ladri a 98 anni, a Spilimbergo invece via libera al parco fotovoltaico da 2 milioni. Nella foto a centropagina una concorrente casarsese di Miss Curvi in finale. Sul Messaggero Veneto cambia rispetto all'edizione di Udine la spalla, la fiera si rinnova, 5 nuove rassegne nel calendario del prossimo anno, la finanza oscura 4 siti web per contraffazione, sotto la morte dell'anziana nella sua casa di Aviano. In taglio alto anche un titolo per la nuova pista per l'omicidio di Pasolini, il furto delle pellicole di Salò. Autovie Veneta ha programmato nel fine settimana la chiusura del tratto dell'autostrada A4 tra il nodo di Porto Gruaro e la Tisana in entrambe le direzioni di marcia dalle 20 di questa sera alle 10 di domani, domenica. Si tratta di un intervento della durata di 14 ore e si svilupperà su ben 5 dei quasi 9 chilometri complessivi del tratto in costruzione di terza corsia tra Visopoli e Porto Gruaro. In una sola notte i tecnici della concessionaria e le maestranze opereranno per poter deviare provvisoriamente i primi 5 chilometri della carreggiata est sulla nuova carreggiata ovest. Questo consentirà il passaggio alla terza e ultima fase della canterizzazione, che prevede l'adeguamento della vecchia carreggiata verso Trieste e la cucitura con la nuova. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda alle 11.30 con Biblos. Oggi conosceremo una storia che viene dall'Ucraina, la vita di 4 ragazzi con sogni ed ideali conosciuti dallo scrittore triestino Massimiliano Alberti. Poi scopriremo il miglior romanzo dell'anno in lingua tedesca, il Novecento nella vita di Zora Ostan, da Bovez, allora austriaca, fino a Bari, poi in una casa di riposo in Jugoslavia. Ed è tutto per questa edizione del giornale Radio Regionale, in regia Federico Comar, in redazione ha collaborato Samantha Gonda, Dario Ronzoni e Rita Micoli. Grazie per l'ascolto, l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.